Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. E benvenuti a questa ultima della quarta stagione delle lezioni di jazz. Prima di cominciare vorrei ringraziare anzitutto le persone che rendono possibile queste conferenze a questo livello professionale così alto. Dovrei quindi cominciare con me stesso, in realtà no. Voglio ringraziare lo staff dell'auditorium, Roberto Catucci e tutte le persone che lavorano dietro le quinte e quelle che lavorano anche da questa parte, in particolare i tecnici audio, video e luce, a cui farei un applauso, grazie. Concludiamo con una curiosa coincidenza. Il 12 luglio suonerà qui all'auditorium Keith Jarrett, ma la scaletta delle lezioni di jazz era stata decisa alla fine dell'estate scorsa, quindi non potevo sapere che ci sarebbe stata questa felice soprattutto per l'auditorium che vende i biglietti ovviamente, questa felice coincidenza. E chiudiamo con questo artista così controverso per certi versi, per certi aspetti, così discusso, un artista che suscita amore, odio, perplessità, grandi passioni, grandi rifiuti, e cercheremo anche di capire il perché di questa capacità che Jarrett ha di dividere anche il pubblico, ma anche la critica, che non sempre ha una posizione unanime su quello che ha fatto. Io adesso non è che voglio raccontare la vita di Jarrett passo per passo, quindi i suoi inizi di bambino prodigio, musicalmente dotato, in una famiglia che comunque aveva degli elementi di problematicità, con i genitori che si separano abbastanza presto. Ma ci interessa affrontare la questione di come la sua musica è cambiata e si è evoluta nel corso di questi anni. Premetto subito che, come sa chi frequenta la musica di Jarrett, la sua musica spesso si svolge su durate temporali molto estese, e quindi gli ascolti che faremo in alcuni casi sono integrali, ho scelto degli ascolti più brevi, in altri casi ho dovuto tagliare o sfumare, ma comunque parliamo di un artista talmente noto che insomma gli ascolti servono più che altro per focalizzarsi su degli aspetti che vorrei affrontare con voi. Le prime tappe della carriera di Jarrett le affrontiamo rapidamente. Come sapete, Jarrett, lo abbiamo visto già la settimana scorsa, Jarrett è stato scoperto praticamente mentre suonava in dei locali minori, quando aveva poco più di 20 anni, da Art Blakey, ed è entrato nei Jazz Messengers, una militanza breve nel gruppo di Blakey, nel quale non si trovava molto bene, ma che comunque gli ha consentito di finire in primo piano nel mondo del jazz con un grande musicista che conta. In realtà la prima, diciamo, ondata di fama che tocca Jarrett è quella con il quartetto di Charles Lloyd, nel quale peraltro, come vedete, sono tutti dei ragazzini giovanissimi. Lloyd è il più alto a destra, Jack DeJohnette è il ragazzino alla nostra sinistra, Ron McClure al basso e Jarrett seduto. Il quartetto di Lloyd, tra l'altro, è interessante perché ci mostra un aspetto che riguarda la promozione della musica di Jarrett. Charles Lloyd era un sassofonista, è un sassofonista ancora attivo e molto importante, che fu, come dire, una specie di Frankenstein, una specie di esperimento di laboratorio fatto dal produttore George Avakian, che prese questo musicista che veniva dal nulla e decise di farlo diventare una star che potesse conquistare anche il pubblico del rock nella seconda metà degli anni 60. Il produttore era George Avakian, che oggi ha più di 90 anni, è un produttore leggendario del jazz. Avakian promosse nel modo adeguato Jarrett, Lloyd, tra l'altro facendogli fare dei concerti in Europa. L'idea era: faccio diventare il gruppo famoso in Europa e poi pian piano lo faccio diventare famoso negli Stati Uniti. L'idea era di conquistare il pubblico statunitense passando dall'Europa. Il progetto funzionò molto bene. Non durò moltissimo, il quartetto di Lloyd fu rimasto insieme per poco meno di 3 anni, registrarono dei dischi di grandissimo successo, dischi che secondo me oggi meritano l'ascolto, soprattutto per la tumultuosa apparizione, perché non c'è altro aggettivo, tumultuosa apparizione di questo giovane pianista che aveva una quantità di idee che quasi diventava difficile da tenere sotto controllo. Questo è tra l'altro uno degli aspetti fondamentali e perfino quasi problematici di Jarrett, una quantità di idee, un talento, un'energia interiore che Jarrett stesso faticava a tenere sotto controllo. Questo tumulto interiore, di questo tumulto interiore Jarrett è sempre stato molto consapevole. La personalità di Jarrett è una personalità a volte scissa tra una profonda consapevolezza di ciò che vuole fare, del proprio talento, delle proprie capacità, dei propri obiettivi, e al tempo stesso una specie di confusione interiore su come realizzare tutto questo. E questa ambivalenza tra l'energia ad esprimersi e la difficoltà a trovare la strada per esprimersi, Jarrett l'ha vissuta cercando un punto di equilibrio. Questo punto di equilibrio è quello che lui chiama l'estasi, una specie di flusso interiore, di consapevolezza per cui lui mantiene, è consapevole e al tempo stesso si lascia andare in maniera, come dire, istintiva. Questa ricerca di una consapevolezza interiore, di un equilibrio, di un punto di equilibrio interiore, è passata a un certo punto anche attraverso l'interesse scoperto durante i tour con Charles Lloyd per un mistico armeno, Georges Ivanovich Gurdjieff, per il quale Jarrett ha nutrito un profondo interesse nel corso degli anni, un interesse che lo ha portato poi a interessarsi anche al sufismo e quindi a tutta una serie di, come dire, di riflessioni che riguardano appunto l'equilibrio interiore e la capacità di esprimere ciò che si sente dentro. Questo interesse per il, di carattere mistico è, come dire, una spia di questo bisogno giarrettiano di espressione equilibrata di se stesso. Addirittura lui arriverà, siccome Gurdjieff era un compositore, un musicista, diciamo anche così dilettante, la devozione nei confronti di questo mistico lo condurrà poi molti anni dopo anche a registrare alcune delle melodie di Gurdjieff, niente di memorabile ma comunque una specie di atto d'amore fatto nei confronti di Gurdjieff. È interessante che Jarrett affermi che dopo aver registrato il disco con queste elementari melodie di Gurdjieff, lui ha sentito il bisogno di non occuparsi più di Gurdjieff, cioè come se e questo vedrete che punto d'arrivo della nostra storia, cioè come se lui avesse avuto bisogno di scavare fino in fondo in un certo punto della propria anima e una volta che ha raggiunto, come dire, la conoscenza se la lascia alle spalle, non gli interessa più, non gli dà più niente, o meglio gli ha dato tutto e quindi poi l'abbandona. Alla fine degli anni 60 Jarrett fonda un trio che a tutt'oggi a mio avviso è una delle formazioni più straordinarie che Jarrett abbia mai diretto. Lo dico soprattutto perché, come sapete, Jarrett è noto per lo Standard Trio, forse molti ascoltatori si sono anche avvicinati alla sua musica attraverso quel trio, ma a mio avviso questo trio è per certi versi anche superiore. È un trio in cui ci sono due musicisti scelti non a caso, perché sono i due musicisti che sono alla base della formazione musicale di Jarrett. Charlie Haden, scelto perché era stato e occasionalmente continuava a essere il bassista di Ornette Coleman. Ornette Coleman è il faro, il punto di riferimento della musica del Jarrett giovane. Perché il faro? Perché Coleman è, come abbiamo visto in una lezione, alcuni sono sicuro, molti di voi non hanno assistito e non sanno cosa si sono persi, Coleman è pura melodia. L'abbiamo raccontato. Entrare nella musica di Coleman vuol dire entrare in un gusto puramente melodico e Jarrett cerca la melodia a tutti i costi, è proprio assetato di melodia. E la lezione di Ornette Coleman sul sassofono, lui prova a portarla sul pianoforte, sfidandolo anche a cercare di far cantare lo strumento come se fosse il canto sassofonistico di Coleman. In più Coleman gli insegna una cosa fondamentale che lui apprende anche, per esempio, studiando pianisti come Paul Bley, una libertà formale, un modo di uscire dalle strutture tradizionali per cantare in maniera molto libera, senza, come dire, senza vincoli, lasciando fluire liberamente la melodia. Questa è la lezione di Ornette Coleman. Avere Charlie Haden dietro lo aiuta a seguire questo obiettivo che sarà sempre fondamentale nella sua vita. Paul Motion invece era stato a lungo il batterista di Bill Evans, che è l'altro faro nella formazione di Jarrett. Mettendo insieme Haden e Motion, Jarrett ottiene al tempo stesso quel senso di galleggiamento tipico del trio di Evans, dato dalla batteria di Motion, che come sapete scandiva il tempo senza scandirlo, cioè portava il tempo dando un senso continuo di danza, di discontinuità, di incertezza perfino, perché si sente il tempo che sembra andare avanti, indietro, rallentare, accelerare, come se la musica non fosse abbastanza stabile, ed è proprio quello che voleva Motion, insieme a Charlie Haden, che dà questo fondamento melodico semplice che consente a Jarrett di esprimersi in piena libertà. Io direi di ascoltare un brano del 1968 che si chiama New Rag, perché tra l'altro ci mostra come Jarrett, forse molto affascinato anche dal jazz delle origini, esistono per esempio registrazioni private dove lui suona lo stride piano alla James P. Johnson con un'abilità formidabile. Questo si chiama New Rag, appunto come un ragtime nuovo che evoca il jazz delle origini, ma con questa libertà espressiva che viene in fondo poi dal free jazz. È un live, San Francisco 68. Thank you. Nel trio con Aiden and Motion, Jarrett tra l'altro suonava anche altri strumenti. Molti di voi forse sanno che Jarrett è stato un eccellente sopranista con uno stile molto particolare, molto aspro, rauco quasi. Usando il soprano, a volte il trio era fatto proprio come vedete, o anche dei flauti, il trio suonava a volte proprio fiato, contrabbasso e batteria, senza che Jarrett toccasse il pianoforte. Il soprano è stato uno strumento che Jarrett continua a praticare ancora oggi. Oggi ormai non lo suona più in concerto, ma almeno fino a tutti gli anni 70 non era raro vederlo imboccare il soprano e aggiungere dei colori, soprattutto, dicevo, più che melodici, appunto timbrici, con questo suono così urticante a volte del sax soprano, al suo gruppo, nel quale aggiungeva anche moltissimo, per esempio, le percussioni, che sono un altro elemento che non abbiamo sentito in questo brano, ma che è caratteristico del suo approccio di quegli anni. Quindi una musica estremamente aperta. Il fatto che poi ci fossero degli episodi di fiati e ritmica avvicinava ancora di più questa musica a quella di molto aperta di Ornette Coleman o del free jazz di quegli anni. Notiamo incidentalmente, ma ci torniamo fra poco, una certa cura nel look di Jarrett, che si adegua alla moda di quegli anni, di questi capelli afro che lo fanno sembrare nero. Jarrett ha una pelle olivastra, più scura, e questo è un sintomo interessante, diciamo, di un bisogno di farsi, come dire, riconoscere ed accettare all'interno della comunità nera del jazz, passando attraverso questo segnale molto vistoso della capigliatura, che in quegli anni tra l'altro aveva un significato politico e proprio di appartenenza etnica molto molto importante. Cioè, i neri che volevano affermare la loro negritudine esibivano questo tipo di capigliature. Che un bianco lo facesse in maniera così clamorosa era evidentemente un segnale da non sottovalutare. La svolta artistica per Jarrett arriva quando Miles Davis lo ascolta e decide di chiamarlo nel suo gruppo. All'inizio il gruppo ha due tastieristi, perché c'era Chick Corea, che era il tastierista di Jarrett, di Davis. Però a un certo punto poi Chick Corea lascia e nei pochi mesi in cui Jarrett è nel gruppo continua a suonare soprattutto piano elettrico e organo. Jarrett molte volte si è lamentato del fatto che Davis gli facesse suonare gli strumenti elettrici che lui non amava, ma poi non ha mai nascosto che l'esperienza fatta nel periodo con Miles Davis è stata per lui la svolta. La svolta in che senso? Nel senso che lui ha capito che la musica poteva essere ancora più aperta, ancora più libera, e poteva andare su terreni come per esempio quello del canto ancora più, come dire, più raffinati. Credo che più di qualsiasi altra cosa sia utile vedere un filmato di uno degli ultimi concerti del gruppo di Miles Davis con Jarrett. Se non ricordo male, siamo nell'ottobre o novembre del 71. Questo appunto è il gruppo dove Jarrett suona, come vedete in basso a sinistra, sia l'organo sia il piano elettrico. Ecco, siamo a Berlino, 6 novembre 1971, è uno degli ultimi concerti. Vedremo un frammento, è una suite lunghissima che dura più di un'ora, la trovate per intero su YouTube. Noi vedremo un frammento in cui c'è l'assolo di Jarrett e poi a un certo punto, molto affascinante, c'è una parte in cui Davis, che suona un wah-wah elettrico, come faceva in quegli anni, e Jarrett quasi duettano. Ed è interessante perché Jarrett lì lavora moltissimo di frammenti melodici, come faceva anche nel brano che abbiamo sentito, cercando il dialogo molto intimo con la tromba di Davis. Sono due strumenti profondamente elettrificati, il piano elettrico e tromba di Davis, scusatemi. Sono due strumenti elettrificati, ma entrambi cercano un intreccio nel canto. Davis cerca di andare dietro a Jarrett, Jarrett cerca di andare dietro a Davis, ed è un momento molto affascinante. Questo nella seconda parte della clip che stiamo per vedere. giusto un... mi sembrava giusto vedere questa clip così lunga perché sono dei momenti straordinari e ci consente anche di fare una prima riflessione su un aspetto apparentemente accessorio, ma che in realtà è importante, che è la gestualità di Jarrett, che è una delle cose che suscita più fastidio, ilarità, fascino. Jarrett, diciamo prima il punto di vista di Jarrett. Jarrett ha sempre detto che quando lui si muove tanto e mugugna, tra l'altro a dispetto di problemi di mal di schiena che poi lo affliggeranno negli anni a venire, che saranno terrificanti, quando comincia a muoversi vuol dire che dentro di lui, a prescindere da quello che sta suonando, dentro di lui, lui ha raggiunto quel flusso, quell'equilibrio, cioè quella capacità di mettere nel punto di equilibrio il desiderio di esprimersi liberamente e il mettere a fuoco quello che vuole fare. Lui dice, quando comincio a muovermi così liberamente vuol dire che sto finalmente bene, che ho messo a fuoco il mio equilibrio e posso lasciare libero il flusso di quello che ho dentro, sapendo quello che faccio. Però non dobbiamo nasconderci che esiste una specie di disparità fra quello che lui suona e la sua gestualità. È evidente che nella gestualità viene fuori il significato di quello che lui sta facendo, che per se stesso ovviamente, che è molto diverso da quello che lui effettivamente sta facendo. Adesso qui non c'è tempo, ma vi potrei far vedere come Chick Corea, nello stesso gruppo, su una musica molto simile, suoni come se fosse un notaio alla macchina da scrivere. E a volte la musica che fa, lasciatemelo dire, è anche più interessante di quella che fa Jarrett. Anzi, in molti casi nei dischi degli anni 70, dei primi anni 70, con Davis, quello che fa Corea è molto più sperimentale, azzardato, molto più intenso di quello che fa Jarrett. Però Corea suona appunto davvero come se fosse la macchina da scrivere. Jarrett invece si esprime fisicamente in questo modo, che non ha alcuna relazione con quello che lui sta facendo, ma aiuta noi a capire che significato ha per lui quella cosa lì, a prescindere dal valore di quello che sta suonando. Il periodo con Davis si conclude per scelta dello stesso Jarrett, che dice a un certo punto io ho capito che comunque raggiunto come di nuovo, soddisfatti dei bisogni, capite delle cose, lui va avanti e si lascia alle spalle questa eccezionale esperienza con Davis e produce un disco per la Columbia 1971, vi ricordo che Jarrett ha solo 26 anni, che a mio avviso è uno dei capolavori assoluti di Jarrett. Se io dovessi cominciare, come dire, consigliare a qualcuno da dove cominciare, direi di cominciare e forse anche finire con questo disco, che è un doppio album che purtroppo nell'edizione in CD, siano stramaledetti i produttori della Sony, manca del primissimo brano, che si chiama Visions, si può acquistare online però in digitale su Amazon o su iTunes, che è un brano di 2 minuti straordinario per pianoforte ed archi, che è forse una delle cose più belle del disco, che mancano nell'edizione in CD. Che cos'è Expectations? È un disco composito dove Jarrett lavora con un'orchestra di ottoni, un'orchestra d'archi, un sacco di ospiti, tra cui uno sfortunato chitarrista straordinario morto molto giovane, Sam Brown. Ovviamente gli amici Charlie Eden e Paul Motion, e in più anche in alcuni brani, lo vedete al centro in basso, il sassofonista Dewey Redman, su cui torneremo, che è il papà di Joshua Redman. Perché Jarrett ricorre a Dewey Redman? Guarda un po', perché Dewey Redman in quegli anni era il sassofonista di Ornette Coleman. Quindi è un modo, era il partner di Coleman al tenore, è un modo di portarsi un pezzo di musica colemaniana dentro la sua musica. Jarrett si rivela un abile arrangiatore per archi, del tutto autodidatta peraltro, un eccellente arrangiatore per fiati, e Expectations sventaglia una quantità di atmosfere diverse incredibili, dai pezzi di free jazz alla Ornette Coleman a momenti più rock, a momenti più gospel, perché qui viene fuori un altro aspetto della personalità di Jarrett in quegli anni. La passione sia per i ritmi rock, che fanno parte generazionalmente del suo mondo, ovviamente, nel 71 a 26 anni, quindi molti ragazzi della sua stessa età suonano una musica un po' diversa, ma comunque appunto legata al rock. Ovviamente lui suona anche il soprano, come vedete in questa foto presa dal disco, sia la passione per il gospel. Un gospel molto, molto viscerale, al tempo stesso ci sono echi del folklore bianco americano. Tant'è vero che qualche studioso ha parlato, a proposito della musica di Jarrett dei primi anni 70, della nascita di una specie di panorama pastorale americano che entra nel jazz. Jarrett non è l'unico a fare questa cosa, è anche il suo amico Gary Barton, con cui nello stesso periodo incide un disco straordinario, con un quartetto appunto con Gary Barton e lo stesso Jarrett, a loro nome di entrambi, in cui vengono fuori canzoni popolari americane, questo spirito del, per esempio del West ottocentesco, e poi da un altro lato il gospel. C'è sempre questo bisogno di aderire anche alla cultura africano-americana, quella dei neri, quasi cercando di farsi passare per nero. E il brano che stiamo per ascoltare, There is a Road, God's River, che ha questo titolo già gospel, c'è una strada, è il fiume di Dio, 1971, ha tutte queste componenti, pastorali, classiche, gospel, un po' rock. E la cosa straordinaria è che Jarrett ottiene questo effetto togliendo la batteria, quindi senza avere quella spinta che sarebbe più facile, e aggiungendo gli archi. E il risultato è veramente straordinario. Thank you. Sì, è bellissimo, è un disco straordinario. Il disco Expectations mostra che questo giovane pianista ha una quantità di idee diverse, incredibili. Pezzi pieni di percussioni brasiliane con i fiati, pezzi con gli archi, pezzi free, pezzi gospel, suona il sax soprano, suona il pianoforte, improvvisa benissimo, compone, arrangia per orchestra e veramente non si pone limiti, eppure fa fatica a arrivare alla fine del mese. È più conosciuto in Europa che negli Stati Uniti, dove suona molto poco. Ha una moglie, un bambino piccolo, una famiglia da mantenere e fa molta fatica e lavora tanto, si dedica moltissimo alla musica. Questo sarà uno dei tratti fondamentali di Jarrett e in ultima analisi anche uno dei suoi problemi. Lavorare troppo, suonare troppo, darsi tanto perché ha tanto da dire e non si pone dei limiti. Deve lavorare ancora di più, deve farsi conoscere di più e gli viene in soccorso una persona che non lo conosce, che non l'ha mai visto, e gli manda una lettera dalla Germania, da Monaco. Questa persona è Manfred Eicher, un giovane produttore che stava insieme a Matthias Winkelmann, avevano fondato in due la ECM, Editions of Contemporary Music, e gli manda una lettera e gli dice: signor Jarrett, io mi chiamo Manfred Eicher, vorrei fare un disco con lei. Le propongo un trio, un duo con Gary Peacock e un disco in solo. E lui risponde: facciamo il disco in solo. Durante altri tour con altri gruppi in Europa, Jarrett e Eicher si incontrano e nasce un'amicizia che è fondamentale per la carriera di entrambi. La ECM crescerà intorno al nome di Jarrett, Jarrett crescerà grazie alla sconfinata fiducia anche nei progetti, come vedremo, più folli che Eicher gli dedica. I due si ritrovano e producono un disco destinato ad essere uno degli spartiacque della storia del jazz. E il disco è Facing You. Perché Facing You è un disco spartiacque? Intanto è probabilmente il più bel disco in piano solo che Jarrett abbia fatto. Lo so che adesso arrivano i pomodori perché non cito il concerto di Colonia, però c'è già pronta la rete poiché scende dall'alto, ho già dato un segnale ai tecnici. Però Facing You è un disco spartiacque perché, lo dico, cerco di essere estremamente sintetico. Forse voi non ci crederete, ma alla fine degli anni 60, primi anni 70, il piano solo, cioè un pianista che suona da solo, in concerto o su disco, era un'assoluta rarità. Mentre era stata una delle forme principali di espressione per i pianisti, per esempio negli anni 40, negli anni 30, negli anni 40, pensiamo ad Art Tatum, ad un certo punto, dopo la morte di Tatum, cioè intorno alla metà degli anni 50, nessuno si è più azzardato a fare dei dischi o tantomeno dei concerti in piano solo. Per quasi 15 anni sulle scene del jazz non si è visto nessun pianista che facesse un concerto in piano solo. I dischi in piano solo erano rarissimi. Vi faccio un esempio. Bill Evans, il primo disco che ha fatto in piano solo, Conversations with Myself, nel 63, lo ha fatto sovraincidendosi due o tre volte. Quindi voi sentite tre volte Bill Evans sovrainciso. Non è un disco in piano solo. Più tardi farà un disco che si chiama Alone. E poi lo farà anche Paul Bley. In altre parole, Tatum era come se avesse fatto tabula rasa. Come fai a imitare un pianista come quello? E allora meglio non metterci proprio le mani sul pianoforte. L'esperienza di Bill Evans aiuta evidentemente Jarrett, ma si tratta comunque di esperienze isolate e mai in concerto. Jarrett decide di affrontare il problema da zero. Piano solo. Come piano solo? Principalmente improvvisando senza rete, oppure con dei materiali di partenza minimali. Mentre tutti i piano solo precedenti si basavano sugli standard, sul suonare i classici pezzi di jazz in forme anche molto complesse, Jarrett parte da un'altra idea. Parto da zero, provo a creare quel flusso che lui cerca, come avete visto, anche suonando con Miles Davis, in completa solitudine, quindi in una dimensione di concentrazione al tempo stesso più difficile ma anche più stimolante. Non è l'unico all'epoca, l'altro personaggio che farà rinascere il piano solo è proprio il suo amico tra virgolette, dico scherzosamente, rivale, Chick Corea, con il disco Piano Improvisations. Ma Facing You viene accolto anche dalla critica come un disco clamoroso e a tutt'oggi è un disco appunto importantissimo perché segna la rinascita di un genere, la possibilità di andare a sentire un concerto di jazz in cui un pianista suona da solo oppure fa dei dischi da solo. Negli stessi anni un terzo pianista stava affrontando il piano solo ma in termini completamente diversi, cioè Cecil Taylor, che dalla fine degli anni 60 aveva cominciato a fare dischi e concerti in piano solo. Gli esiti sono completamente differenti, l'approccio è completamente diverso, quello di Jarrett naturalmente è anche meno difficile come approccio di quello di Taylor e ottiene una grande attenzione. Aggiungiamoci che il produttore Manfred Eicher mette a disposizione di Jarrett il miglior pianoforte, il migliore studio, il miglior accordatore e quindi gli consente di far emergere quelle qualità pianistiche pure vere e proprie, che fino a quel momento non erano ancora emerse, per esempio suonando con Miles Davis perché suonava il piano elettrico. Il pezzo più bello di Facing You si chiama In Front, dura più di 10 minuti, quindi non è quello che vi propongo qui. Vi propongo un brano più breve, si chiama Vapaglia, e però rende bene l'atmosfera del pezzo. È un brano molto lirico, quasi introverso, complesso nei suoi giochi armonici, apparentemente senza forma. Non si capisce bene dove comincia e non si capisce bene dove vuole andare a parare. In realtà è una specie di elaborazione su pochi materiali di partenza. Questo disco fu prodotto e registrato e distribuito anzitutto in Europa, e questo è molto importante. Come nel caso di Charles Lloyd, Eicher pensò che il modo migliore per promuovere Jarrett era farlo diventare molto noto in Europa, incuriosire gli statunitensi e portare Jarrett poi negli Stati Uniti. Jarrett diventa una star in Europa e negli Stati Uniti comincia ad essere, come dire, oggetto di attenzione. Vorrei farvi notare, tra l'altro, una cosa affascinante. In quegli anni la maggior parte dei jazzisti si rivolge verso i suoni elettrici del rock. Jarrett invece comincia ad acquisire una fama sempre più ampia e sempre più solida, senza mai toccare d'ora in poi uno strumento elettrico, senza mai cedere, diciamo, alla tentazione di andare dietro alle mode. Anzi, lui fa esattamente il contrario di quello che va alla moda in quegli anni e riesce ad affermarsi gradualmente attraverso un misto di, come dire, intuito produttivo di Manfred Eicher, senza una strategia precisa, ma intuito produttivo passo dopo passo e capacità ovviamente di Jarrett di mantenere dei livelli di produzione altissimi. L'incontro con Eicher lo aiuta ulteriormente, mentre lavora ad altri progetti, a focalizzarsi sul piano solo. E il piano solo diventa il centro focale di molta produzione degli anni 70. In particolare Eicher e Jarrett girano proprio insieme, concerto dopo concerto, e nelle condizioni peraltro anche più diverse, con pianoforti buoni, cattivi, in situazioni appunto molto variabili, registrando tutto il registrabile e poi via via pubblicando le cose più interessanti. Sembra a un certo punto che Jarrett dia il meglio di sé in questi piano solo in due condizioni. Una, quella che dice lui, quando dice: mi metto al piano e lascio uscire fuori quello che ho dentro. È chiaro che detto così sembra una cosa, una specie di magia. Poi in realtà lui si basa su un repertorio di conoscenze, di gesti, di armonie che gli vengono, come avete intuito qui, sia dalla tradizione di Bill Evans, sia anche da quella classica. Si intrasente qualcosa di Bartok, si sente qualcosa della tradizione pianistica americana, di Gottschalk, eccetera. Dall'altro però, una delle cose che aiutano Jarrett sono le difficoltà, cioè lui peggio sta e meglio suona. Comincia ad avere serissimi problemi di mal di schiena, ma al punto che lui passa a volte durante i tour l'intera giornata a letto senza neanche potersi alzare. In certi casi le difficoltà del tour lo portano, per esempio, a passare 2 giorni senza dormire, ed è in queste condizioni che viene registrato quello che probabilmente è il suo più straordinario disco in piano solo, che contiene 2 concerti fatti tra il maggio e il luglio del 73, notate, sempre in Europa. Lui non fa concerti di piano solo negli Stati Uniti, ne fa pochissimi, e le sale sono semivuote. Invece tra Svizzera, Germania, Francia, il pubblico è abbondantissimo. A Brema, 12 luglio 73, lui racconta che non sapeva neanche come arrivare allo sgabello del pianoforte dietro le quinte, perché non ce la faceva neanche a stare in piedi per il mal di schiena. Si siede, comincia a suonare e accade il miracolo. Per un'ora, questa è la durata media dei concerti in solo di Jarrett, Jarrett attraversa diverse aree. I piano solo di Jarrett di quegli anni sono lunghissimi. Sono 1 ora, 1 ora e 10, 1 ora e 15 di concerto senza interruzioni, contrariamente a quello che poi farà dagli anni 90 in poi. E attraversa diverse aree. Parte da un materiale, questo materiale poi gli dà lo spunto per un'idea successiva, poi quel materiale magari lo rallenta e diventa lo spunto per un'idea successiva ancora, e così via, finché non ritiene esaurito il percorso. In questo percorso può succedere di tutto. Siccome Jarrett si lascia andare completamente, lui può suonare delle cose incredibilmente sciocche e banali e delle cose incredibilmente ispirate. A lui non interessa, come dire, la disparità di qualità. Gli interessa il fatto che tutto sia, come dire, sincero, immediato. Va dato atto che, per esempio, nei concerti di Brema e Losanna questa disparità di qualità non c'è, è altissima. Purtroppo sono esecuzioni molto lunghe, quindi io adesso isolo un frammento della prima parte del concerto di Brema, 12 luglio 73, registrato meravigliosamente da Eicher e dai suoi tecnici, in cui viene fuori un altro aspetto fondamentale che non abbiamo ancora considerato: il suono del pianoforte di Jarrett. Io sono un ex pianista, sono diplomato in pianoforte e non voglio male a nessuno, però invidio Jarrett, ho una profonda invidia viscerale. Se lo incontro di persona, glielo devo dire, ti invidio, perché ha un suono incredibile. Chiunque pianista qui dentro lo sa, il suono di Jarrett è straordinario. Questo suono che al tempo stesso limpido, sentite l'affondo sul pianoforte, molto articolato, e qui si sente molto bene, tra l'altro, quello che stiamo per ascoltare. Anche a tempi rapidissimi si sentono le note sgranate e contemporaneamente si sente un grande legato, come se le note fossero fuse l'una nell'altra e al tempo stesso le sentite sgranate, come un rosario unito da una specie di appunto da un filo che lega tutte queste note. Al tempo stesso Jarrett ha una magica capacità di percepire come risuona il pianoforte, cioè quanto è lungo il suono, come il suono si sparge, come questo colore ricco si disperde nell'aria e quindi come i suoni accavallandosi creino gli effetti cosiddetti degli armonici, cioè di questi suoni che vibrano insieme e creano un colore. Ho isolato un passaggio in questo aspetto, è particolarmente evidente. Jarrett parte da un'idea semplice, un arpeggio della mano sinistra, comincia ad accelerarlo e di lì costruisce quello che sentite. Siamo a un terzo dell'esecuzione. Thank you. inizia un episodio gospel subito dopo. Quello che trovo sconcertante, ascoltando di nuovo anche con voi adesso questo passaggio, è la capacità magica che Jarrett ha di valorizzare un materiale così banale, perché il materiale è molto banale e in alcuni momenti suona banale. Io non appartengo, diciamo, agli adoratori della setta giarrettiana, quindi non è che tutto quello che fa è oro colato. Però non si può negare che dietro questa musica, che ha dei momenti così anche più kitsch, più facili, ciò che sconcerta è appunto la sincerità assoluta con cui viene proposta, il rischio che Jarrett si prende e soprattutto la grandiosità del suono che riesce, come dire, a tenere in piedi un edificio altrimenti un po' facilotto, diciamo così, un po' dal gioco un po' facile. Questo registro, che al tempo stesso di cantabilità più semplice, più facile, e di complessità fonica, di energia, eccetera, sancisce il successo di questi dischi, che vendono tantissimo. A metà degli anni 70 Jarrett comincia a essere una star del jazz, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti. E il genere che appunto lui ha fatto rinascere, il piano solo, è quello che gli dà la fama. Anche quando produce un disco che tutto sommato non è tra i suoi migliori, certo non rispetto a Brema o Losanna, naturalmente scherzo, ma perché sapete che è un disco di culto, un disco in cui peraltro Jarrett di nuovo dà il meglio di sé, perché è suonato in condizioni allucinanti. C'è tutto, insomma, un backstage di questo disco che fu realizzato dopo non so quante centinaia di chilometri fatte su un'utilitaria, lui e Iker in macchina, che arrivano a Colonia senza aver dormito per 2 giorni per una serie di problemi tra salute, hotel, eccetera. Arrivano e trovano un pianoforte inusabile, proprio un pianoforte pessimo che siccome è domenica non riescono a sostituirlo. Jarrett sta pure male, ha sonno, non ce la fa fisicamente, decide di suonare solo un pezzettino di quel pianoforte perché il resto non è suonabile. Comunque viene registrato, attenzione però, il concerto di Colonia ha subito un lavoro di post-produzione, cioè un tecnico ha cercato di migliorare il suono, di tagliare, di aggiustare delle cose in modo da rendere accettabile una cosa che altrimenti non lo era, e poi il disco ha avuto, con sorpresa dello stesso Jarrett, dello stesso Iker, il successo che sappiamo e, come dire, la fama e per fortuna anche un po' più di sicurezza economica per Jarrett. Questo culto del piano solo, questa attenzione per il piano solo, porta Jarrett e Iker, perché i due chiaramente progettano questa cosa insieme, a esperimenti mai provati prima. Per esempio il disco dei concerti di Monaco e Bregenz, che sta dentro 3 LP. Ora, negli anni 70 comprare 3 LP di piano solo dello stesso musicista era una cosa folle. Oggi chiunque accetterebbe un triplo di Jarrett, ma in quel momento era come un gesto esagerato. Ma c'è di più. Jarrett va in Giappone, fa un tour, quasi tutti i concerti del tour vengono registrati, e la ECM pubblica un cofanetto di 10 LP in piano solo con i concerti giapponesi di Jarrett, i Sun Beer Concerts, novembre 1976, che tra l'altro sono splendidi, sono molto belli, tutti veramente molto belli, con poi, come sempre accade, con picchi di eccellenza, momenti di stanchezza, momenti di banalità, altri di illuminazione, scusate, ma quello che conta dei Sun Beer Concerts è questo gesto senza precedenti, 10 LP di piano solo, con un prezzo spropositato, e che dovevi prendere o lasciare. Questo è Jarrett in piano solo, una specie di, di semidio che si addirittura osa un gesto produttivo del genere anche da parte della ECM. La cosa pazzesca è che mentre Jarrett produce questa incredibile quantità di musica a livelli molto alti e proponendo un modello produttivo fuori del comune, tra l'altro con grande scioltezza, perché Iker e Jarrett cominciarono a sentire i nastri dei concerti, facciamo una lista di quelli che vogliamo fare, e le loro liste coincidevano, e alla fine ha detto, vabbè, pubblichiamoli tutti, ha detto Iker. Una follia. Nel frattempo Jarrett dirigeva altre due formazioni, quando vi dico il super lavoro. Uno è il cosiddetto quartetto americano, cioè quel quartetto ispirato a Ornette Coleman, con Charlie Haden, Paul Motion e Dewey Redman, che in un certo senso porta avanti il discorso di Coleman, registra una serie di dischi, anch'essi diventati di culto, per la Impulse, ma il gruppo intorno al 1976 si scioglie per una serie di incomprensioni interne, ma prima di sciogliersi produce il suo capolavoro per la ECM, non per la Impulse, che è la Survivor's Suite, che è una lunghissima suite dove succede veramente di tutto, in quartetto, dove Jarrett suona tra l'altro anche il soprano. Io ho estratto un frammento dalla prima parte della suite che vi faccio sentire, perché viene fuori un'altra cosa molto affascinante, cioè il legame di Jarrett con l'innodia americana, con l'innodia protestante in particolare. Lui già era appassionato di Gurdjieff e di queste melodie semplici, lo avete sentito anche nel concerto di Monaco, vengono fuori queste melodie molto cantabili, quasi elementari. Ecco, lui è molto attratto da questo aspetto dell'innodia, dell'inno religioso con una melodia molto semplice, solo che qui innesta questa idea melodica semplice su un andamento ritmico ondeggiante, quasi da free jazz, che gli forniscono magistralmente Paul Motion e Charlie Haden, e su cui poi improvvisa anche Dewey Redman. L'effetto è al tempo stesso energico, mobile e maestoso. Thank you. Voi credete che mentre pubblicava cofanetti di 10 LP in piano solo, faceva tour in piano solo, pubblicava 6-7 dischi per la Impulse con il quartetto americano, componeva musica a non finire, fosse soddisfatto? No, certamente. Ancora negli anni 70 Jarrett ha un altro gruppo, contemporaneamente a questo. Grazie a Manfred Eicher conosce un formidabile sassofonista norvegese, Jan Garbarek, con cui fonda un quartetto che non è proprio a nome di Jarrett, lo chiamavano Belonging Quartet, dal nome del primo disco che fanno nel 1974, con due grandi musicisti norvegesi, Jan Garbarek e il batterista Jon Christensen, e un formidabile bassista svedese, Palle Danielsson. Questo quartetto che pubblica nel 74 questo che è un autentico capolavoro, Belonging, ha una vita episodica, si incontrano quando hanno voglia, quando c'è voglia di suonare insieme. E questo quartetto non produce molti dischi, alla fine sono un paio di dischi in studio, qualche disco dal vivo, ma lascia un segno molto più profondo del quartetto americano. Con questo gruppo succede qualcosa di spettacolare, e cioè troviamo la capacità che di Jarrett, grazie soprattutto alla voce di Garbarek, che è molto potente, molto lirica, la capacità di Jarrett di dare sfogo al suo melodismo, anche quasi kitsch, ma con gusto, con equilibrio, con intensità, e al tempo stesso il quartetto nel suo insieme ha una compattezza pur vivacissima, ma una compattezza che il quartetto americano non raggiungerà mai. Noi ci rendiamo conto della grandiosità di questa musica non solo ascoltando i due dischi in studio, My Song e Belonging, soprattutto se non conoscete il quartetto, Belonging è un disco memorabile, sono stato a lungo combattuto se farvi ascoltare un brano da questo disco o qualcos'altro, alla fine ho optato per una registrazione che è uscita di recente in uno degli ultimi concerti del quartetto, che praticamente si sciolse nel 79. Di recente, dunque, uscì all'epoca un disco che si chiamava Personal Mountains, bellissimo, di concerti fatti in Giappone. Se non che neanche quando è, un paio d'anni fa, è uscito un inedito di quei concerti giapponesi, ancora più bello del disco degli anni 70, e ci chiediamo come mai la ECM abbia tenuto in cassetto una roba di questo tipo. Io vi faccio sentire questa composizione di Jarrett, Personal Mountains, con il quartetto europeo, questo live pazzesco. Il brano è molto lungo, dura quasi 20 minuti, ne ascoltiamo la metà, mi interromperò, sentirete, sfumo a metà dell'assolo di Garbarek. Ma vi serve a darvi l'idea di che livello stratosferico fosse questo gruppo, che è probabilmente il miglior gruppo in assoluto che Jarrett abbia avuto. Standard trio, trio originale, quartetto americano, questo secondo me è il miglior gruppo. Personal Mountains si basa su dei ritmi latinoamericani, che è un'altra delle fisse di Jarrett, e Jon Christensen suona in una maniera tale da evocare intere batterie di percussioni latinoamericane. Il titolo fa riferimento anche, come dire, agli sbalzi d'umore personali a cui va incontro Jarrett, ma questa è la cosa meno importante. Sentite come suonano, tra l'altro registrato meravigliosamente sempre dalla ECM. Thank you. po' bruscamente. È impressionante, sembra di comprendere che qui nel quartetto europeo Jarrett raggiunge quella con quattro persone, quel punto di equilibrio estatico che lui cercava nel piano solo, che qui invece è, come dire, il risultato di un'interazione formidabile fra questi quattro musicisti. Non è mica finita qui, perché se ci pensate bene, Jarrett negli anni 70 è venuto fuori con Miles Davis e ha suonato. Poi ha fatto tantissimi piano solo che sono stati un po' l'asse portante, no? Fino al cofanetto, al mega cofanetto di 10 LP, dopo il quale tra l'altro sono usciti i concerti di Monaco e Bregenz, 3 LP. Il quartetto americano, il quartetto europeo, che era più episodico, ma comunque con i risultati che avete sentito. I progetti espansi, come quelli di Expectations, cioè con l'orchestra sinfonica, con gli archi, e poi i dischi per organo. E le composizioni classiche, perché negli anni 70 Jarrett sperimenta anche dei concerti su organi a canne da solo e scrive diversi pezzi classici. Vi ricordo che all'epoca del disco che abbiamo appena sentito, Jarrett, come tutti gli altri suoi musicisti del quartetto europeo, aveva 34 anni, quello che oggi si definirebbe un musicista giovane emergente. Eppure ha un'attività intensissima, scrive diversa musica, anche classica, per varie formazioni e come instancabile esploratore, per esempio, in quegli anni esce un disco di composizioni quasi sinfoniche per il sax di Angar Barek e un'orchestra classica. Poi scrive tutta una serie di musiche da camera e orchestrali, di nuovo ispirate alla musica classica americana del Novecento. Scrive una vera e propria sinfonia che gli viene commissionata da Seiji Ozawa e dai Berliner Philharmoniker, poi non la eseguiranno perché si aspettavano una cosa jazz, per fare un po' di jazz con l'orchestra sinfonica e il pianoforte. Invece Jarrett gli scrive una vera e propria sinfonia classica. Questi dicono, no, il jazzista che scrive la sinfonia non ci piace, non è esotico, e quindi decidono di non eseguirla. E poi uno degli ultimi lavori, molto bello, Bridges of Light per viola e orchestra. Non abbiamo il tempo di ascoltarlo, ma vi invito ad ascoltarlo perché è un lavoro magnifico sulla scia appunto dei grandi compositori americani come Aaron Copland, per darvi un'idea, cioè con questa idea del paesaggio americano, di un lirismo molto, molto intenso. Questo è tanto per darvi un'idea delle cose che fa negli anni 70 e anche subito dopo, come nel caso di Bridges of Light. Ma non basta, perché a proprio nome ci sono i dischi, oltre a incidere gli inni di Gurdjieff, ci sono i dischi per solo organo, che sono decisamente meno significativi, molto ambiziosi, un po' opprimenti, diciamoci la verità, non molto divertenti, ma comunque, voglio dire, ne registriamo la presenza e l'attività. Ovviamente quando Jarrett, instancabile esploratore, incontra uno strumento come il clavicordo, decide addirittura in una giornata, in un pomeriggio, si mette lì e butta fuori un doppio album piuttosto pregevole di libere improvvisazioni sul clavicordo, su questo strumento settecentesco dimenticato. Questi sono solo alcuni degli aspetti delle cose che Jarrett faceva. Allora non ci dobbiamo sorprendere se alla prima metà degli anni Ottanta Jarrett ha un esaurimento nervoso. Problemi fisici, come ho detto, mal di schiena, eccetera, difficoltà in famiglia, separazione dall'arrivo di un secondo figlio, separazione dalla prima moglie, grosse difficoltà, difficoltà con i genitori, la madre che aveva fatto passare il padre per un mostro ai tempi della separazione, poi lui scopre che suo padre è una persona normale, non è un mostro, quindi si era creata una separazione che lui ha dovuto poi ricolmare negli anni tra mille difficoltà, rapporti distanti, difficili con i fratelli e la sorella. Lui stesso è un personaggio umorale che, come sappiamo, a volte aggredisce il pubblico perché cerca una condizione ideale per poter tirar fuori questo flusso musicale, anche se poi i risultati non sono sempre stupefacenti, a volte lo sono, a volte meno, come è normale nel rischio di questo genere di cose. Comunque, insomma, a un certo punto Jarrett ha un esaurimento, vedremo dopo come ne esce da questo esaurimento, qual è la terapia. Però uscito da questo esaurimento nervoso che lo porta a stare a casa, poi fortunatamente incontra un'altra compagna, che è la sua attuale compagna, ritrova un equilibrio e questo equilibrio lo porta poi a fondare il cosiddetto Standard Trio, che in realtà è un'idea che era già venuta a Manfred Eicher. In parte, Eicher fin dall'inizio voleva fargli registrare un disco in trio, che poi non fecero, fece Facing You. Aveva registrato un disco col trio con Gary Peacock, che il suo vecchio, vi ricordate la foto giovanile di ragazzini con Jack the Johnette, insomma era un suo vecchio amico, ma a nome del bassista Gary Peacock, finché alla fine, anche su sollecitazione di Eicher, mettono su un disco e decidono di fare semplicemente degli standard, senza fronzoli, senza particolari arrangiamenti, a diciamo suonare materiale, diciamo così, stantio, ovvio, logoro, perfino conservatore nell'approccio, ma con cosa? Con la consapevolezza di quel flusso, di quella facilità, di quell'equilibrio che Jarrett aveva conquistato, si era conquistato con questo super lavoro, peraltro, negli anni 70. Lo Standard Trio è anche un gruppo, come sapete, esiste ormai da più di 30 anni, con cui Jarrett continua a lavorare. Ah, dimenticavo un passaggio, scusate. Per non farsi mancare niente, Jarrett fa anche l'esecutore di musica classica. Come sapete, incide Shostakovich, incide diverse cose di Bach, tra cui il clavicembalo ben temperato, e soprattutto incide diversa musica americana, tra cui un bellissimo concerto per pianoforte e orchestra di Lou Harrison. Tuttavia, il mondo della musica classica è uno di quelli che lo porta verso l'esaurimento. Non gli piace l'idea che i musicisti classici, lo dice lui stesso, considerino la musica una professione. Cioè loro, dice, fanno il concerto, poi escono dal concerto e parlano di altro. Per lui invece il rapporto fra musica e vita non ha confini, è poroso, e per lui è inimmaginabile che qualcuno suoni e poi decida di esprimersi liberamente in qualcos'altro, che so, andando a nuotare o frustrato perché non sa improvvisare. Il trio, come vi dicevo, segna tra l'altro anche, come vedete, un cambio di look di Jarrett, che attento a queste cose, insomma, non è secondario, e porta questo equilibrio magico fra questi tre giganti della musica. È un gruppo notissimo, però non possiamo esimerci da ascoltare e vedere soprattutto un filmato di un concerto in Giappone dove loro suonano All of You, una canzone di Cole Porter legata al repertorio di Miles Davis. A mio avviso il periodo d'oro del trio è stato fra gli anni, la metà degli anni 80, quando è stato fondato, fino grosso modo alla metà degli anni 90. In quel decennio il gruppo, che oggi a mio avviso suona in maniera piuttosto di routine, quel gruppo ha veramente illuminato gli standard in un modo che sicuramente, lasciatemelo dire, lo dico senza come dire, una connotazione negativa, è un approccio che è neoconservatore. Cioè, scordatevi il Jarrett che esplora territori completamente nuovi, il Jarrett che dissoda terre sconosciute del mondo della musica. Non c'è più quel Jarrett. Quel Jarrett è andato via con l'esaurimento nervoso e con la terapia che l'ha fatto uscire dall'esaurimento, che sarà l'ultimo capitolo conclusivo dopo questo video. Quel Jarrett non c'è più, c'è un Jarrett conservatore che però, come dire, riporta nella conservazione tutta l'esperienza, l'essenza, diciamo il meglio dell'esperienza di infaticabile esploratore degli anni 70 e dei primi anni 80. Tra tutti la straordinaria, incredibile bellezza del suono, che è più che mai risplendente. Purtroppo nel video che stiamo per vedere il regista indulge anche fin troppo alle mosse, ai movimenti, è più interessato alla marca delle scarpe di Jarrett che alle dita del pianista. È un aspetto su cui dobbiamo, come dire, sorvolare, perché come abbiamo già spiegato il perché di questa gestualità di Jarrett, io direi che dobbiamo ascoltare la musica. Thank you. Come uscì Jarrett da questo esaurimento nervoso, che peraltro ha avuto degli strascichi, perché non sempre la sua salute, diciamo, è costantemente sotto controllo? C'è uscito, lo racconta lui stesso, tra l'altro lui, aggiungiamo a tutti i problemi che ho elencato prima, anche il fallimento di una scuola di musica che lui aveva aperto presso casa sua, presso un cottage vicino a casa sua, dove lui voleva rigorosamente persone che non si occupassero di musica. In questa visione utopistica, quasi naif, di poter parlare di musica e insegnare la musica e vivere la musica con i dilettanti o con le persone che non hanno una grossa pratica con gli strumenti o sono semplicemente si occupano di altro e sono interessate alla musica, come a cercare di ritrovare una specie di perduta immediatezza, naturalezza utopica. Dicevo, questa scuola peraltro fallisce perché nei primi anni Ottanta Jarrett subisce un duro colpo finanziario, aveva investito dei soldi che vengono tutti perduti, si ritrova praticamente come quando era ragazzo, senza una lira in tasca ma con in più una famiglia da mantenere, e il super lavoro è anche dovuto alla necessità di fare più concerti possibili per cercare di recuperare una situazione finanziaria disastrosa. Come esce da questo esaurimento? Lo racconta lui stesso. Dopo aver passato mesi su una poltrona a guardare fuori e con lo sguardo perduto nel vuoto, pian piano gli cominciano a venire delle idee. Siccome aveva uno studio fuori, diciamo, casa sua, in un piccolo ambiente, va in questo studio e comincia a suonare con i flautini, c'è anche il pianoforte, ma prende le sue percussioni, il suo sax soprano, canticchia delle cose, melodie semplici, banali, quelle che canti sotto la doccia, molto elementari, e decide di registrarle. Sente che ha bisogno di documentare questo sfogo della sua banalità, chiamiamola così, di questa semplicità. Pian piano accumula materiali, giorno dopo giorno, ogni volta che ha voglia, registra. Lui dice, una volta stavo guidando, mi viene in mente una melodia, me la sono canticchiata finché non sono tornato a casa per non perderla. Registra tutto su dei nastri magnetici, su delle cassette, e alla fine manda, per lui è talmente importante questo materiale che non lo manda ad Eicher, si prende queste cassette e fisicamente attraversa l'oceano per andare a Monaco a portare ad Eicher queste cassette, perché non voleva che si perdessero, ne aveva fatto delle copie. Sovraincide tutti questi materiali ed Eicher, che è disposto a tutto con Jarrett, gli pubblica questa specie di confessione privatissima, molto naif, che si chiama Spirits, che altro non è, questo disco dell'85, che il risultato è come se uno decidesse di fare un disco con quello che davvero che canta sotto la doccia o fischiettando per strada, la prima cosa che ti viene in mente. Chiaro che stiamo parlando di Jarrett, non di una persona qualsiasi, ma l'idea è proprio quella. Spirits è la terapia che fa uscire Jarrett dall'esaurimento, e consiste, e su questo faremo l'ultima riflessione, consiste nel suonare le cose più ovvie e banali che gli vengono in mente. Poi il risultato così ovvio e banale non è, anche se ha delle punte kitsch, niente male il disco. È tutto fatto di frammenti che vanno dai 30 secondi ai 4 minuti. Sono, se non ricordo male, 26 frammenti, noi ascoltiamo il 21esimo. È tutto fatto da Jarrett sovraincidendosi. Suona anche il soprano qui, o il flauto. Spirits, Jarrett si è come chiuso nella straordinaria gabbia dorata dello Standard Trio e ha lasciato, diciamo, i suoi impulsi più sperimentatori, più liberi ai piano solo che continua a praticare, come quello che farà qui a Roma il 12 luglio. Ma Spirits rappresenta proprio questo punto di svolta, è come se avesse detto al mondo: guardate, questo è quello che sono veramente io. E in ultima analisi direi che Jarrett è uno di quegli artisti grandi non solo per quello che hanno fatto e per le difficoltà che hanno fatto nel gestire questa quantità di musica che hanno dentro, ma anche nel non aver avuto esitazioni a mostrare la propria debolezza. E lui ha trasformato anche le sue debolezze in arte, e mi chiedo se questa cosa si possa fare anche con altre musiche, se non con il jazz. Grazie.